la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. E 55 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale e poi in DAB. Dall'Umbria, cioè dalle province di Perugia e Terni, e poi in DAB anche da Roma e infine il web www.ondarossa.info, il sito della radio dove trovate tutti i podcast che la radio produce, quindi se vi perdete qualcosa dalle dirette cui dovete dedicarvi con assiduità e dedizione e poi vi interroghiamo, però se vi doveste perdere qualcosa dalla diretta, dal broadcasting di Radio Onda Rossa, andare sul sito e ritrovate tutto quanto quello che di saliente e di importante trasmette la radio. E inoltre troverete appunto pure Ascolta la diretta tramite web. Avrete la possibilità di ascoltare la radio ogni dove è raggiunto dalla rete. Vi diciamo che sempre dal sito www.ondarossa.info è possibile avere informazioni su come sostenere la radio. Andate su Sostieni, c'è una paginetta 6184001, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Velocissimi siamo andati perché completiamo velocissimi pure insomma i preliminari. E quindi vi diciamo che la casella di posta elettronica della radio è ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni via email. Quella del sottoscritto dello spazio che state ascoltando è 25oclock@ondarossa.info, 25 scritto a numero. E infine che lo 06491750 è il telefono della radio da sempre. Questo perché appunto, finita la sigla, io credo che se Roberto è d'accordo andiamo subito con la prima traccia, visto che è tutto pronto, no? Mi fa cenno di sì, non gli alzare il microfono. L'avevamo accennato la puntata, l'ultima puntata, la scorsa, era due settimane fa, boh, non mi ricordo, forse due settimane fa. Che finalmente saremmo ritornati a fare una di quelle cose che ci piacciono tanto, cioè i live in radio. Dopo tanto tempo che non se ne faceva uno. Ci è cascato dentro la trappola Roberto Falconieri, che è una vecchia conoscenza qui di 25 O'Clock, spesso ci viene a trovare, spesso mandiamo quelle che sono le sue produzioni. E quindi speriamo che si diverta anche lui, ci ha preparato una manciata di tracce, di pezzi. E ci suonerà Unplugged. In acustico, chitarra e voce. Poi così ci intervalleremo con qualche chiacchiera, qualche qualche traccetta così che andremo a scaccapare, a scegliere. Così anche per comunque farlo un attimo ragionare, soprattutto a noi faccio ragionare, perché comunque diciamo abilità tecniche nel stare dall'altra parte del mixer ne abbiamo poche, come sapete. Quindi se sei pronto, 40 secondi, andiamo, mixiamo proprio sigla con primo pezzo. Magari facciamo un piccolissimo check proprio iniziale, magari la ripetiamo perché non abbiamo provato i livelli comunque. Proviamo. Bitch. È un po' squilibrato, dicevo, il canale destro col sinistro, però possiamo andare, abbiamo un po' lavorato qui sul mixer. Roberto Falconieri a Radio Onda Rossa, dai! Set the winner says the story of victory and loss. On things that might have been, draw a line across. Now you're a self-made man, held in high esteem. You didn't let go till it was of my dream. I am the bibbler, I am the soul, I'm the one inside the new on the wall. I am the sucker, I'm me alone, I'm the man breathing down the phone. I am the stalker and you won't retard. I've been sad before you get some soul. Cut my pills, sunk the bottle. So now I'm back in town, driving there for travel. I better smile now, get my portrait down. You said ladder comes to be left alone. I am the liberal, I am the salt, I'm the one inside the new on the wall. I am the stalker and me alone, I'm the man breathing down the phone. I am the stalker and you won't retort. I've been sad before you get some salt. Thank you very much. E questa cos'era? I am the stalker, pezzo che stava verso la fine di quel concept album che abbiamo presentato qualche tempo fa, School Crisis at Times, no? Sì. Invece adesso faccio l'altro pezzo. Adesso facciamo la seconda sì. Allora, faccio una che, di quelle che ho registrato ultimamente, però fischia un po'. Sì, perché è diverso quando parli, quindi ho alzato moltissimo. Vabbè, questa è una di quelle che ho fatto ultimamente. Pile of Nothing, okay. Un tarozzo di niente. You children, respect. Gonna die alone anyhow. I won't let you read my hand. I don't wanna beg. You don't know me, and I've been trying to be kind. I won't pay attention to you, just to be a lady by your mouth. Raise your voice as loud as you want. Cioè, però adesso c'avevo dei problemi, non sentivo più bene, non mi sentivo più, avete smosso qualcosa. Può essere. Non tocco. Alzami un po'. Va bene, parliamo dopo. Sì, adesso mandiamo una traccia e poi magari ti dovrai anche spostare probabilmente se vogliamo parlare, perché da quel microfono sì, che sì. È citato, insomma, non è radiofonicamente idoneo. Sì, però quando avete cominciato a muovere non sentivo più niente. Allora Roberto, 22:13 minuti, bentornato alla radio e ti alzo il microfono, dimmi un po' se prova un attimo a parlare, vedi se ritorni. Sì, grazie benissimo. Del benvenuto. Benissimo, si sente anche bene, abbiamo tolto tutti gli effetti, quindi puoi rimanere nella postazione senza che smontiamo tutto per fare questa piccola pausa. E, allora, quello che appunto non ci sentiamo, cioè, ci siamo visti noi, ma in diretta non ci sentiamo ormai da insomma 3-4 anni, penso, qualcosa del genere. Cosa è successo nel frattempo? Che dopo appunto l'uscita del tuo disco. Non è che è uscito, io l'ho fatto, ma non è uscito perché non c'ho un contratto. Vabbè, però è pubblicato, diciamo, nella rete. No, adesso ho stampato 100 copie, se volete ve ne porto una. Insomma, ah, bene, vedi che quindi invece allora c'è una. No, adesso una stamperò anche un altro disco virtuale. Sempre uscita così sulle piattaforme digitali, Bandcamp, Spotify, non lo so, adesso vediamo. Ecco. Vediamo. E poi ho ricevuto una proposta, ma un'etichetta, ma non ho voluto firmare perché non mi fidavo. Mi è sembrata una. Se era una fregatura, era una fregatura grossa. Non faccio nome. No. Va bene. Ho cercato di fare un gruppo, ma anche quello non è andato a buon fine. Un pochettino si era andato avanti, ma poi no, non era fin era. Dall'inizio non erano le persone giuste che non si volevano impegnare più di tanto, e quindi con questo si è ritornati alla versione quella di stasera, insomma. Beh sì, almeno così stai autosufficiente, no? Non devo aspettare nessuno, i cavoli di nessuno. E puoi dedicarti al rock and roll, insomma, o comunque quello che. Beh, almeno posso presentare quello che scrivo. Comunque quella non manca, diciamo. Quello che abbiamo notato, insomma, che sovente passi qua in radio, ci porti la tua traccetta, quindi. Sì, diciamo, sì, t'ho detto, sì, dal punto di vista di registrare cose sono sempre attivo. Però mi manca la dimensione dal vivo. Infatti oggi c'ho abbastanza paura perché volevo scappare da un'altra parte. Vabbè, se ti può. Dopo tutto sto tempo espormi così in prima persona. Frontman di me stesso. Però in radio, insomma, è pronto. È la cosa pubblico, migliore, è la base questa. Sì. Un pubblico, diciamo, che non è tanto competente, quindi vai alla grande. Siamo noi, insomma. Perché no? No. No vabbè, però la radio c'ha la sua dimensione, insomma, c'ha la sua dimensione perché sai che qualcuno ti ascolta ma non lo vedi, quindi diciamo una forma. Vabbè, invito chi ci ascolta a sottoscrivere alla radio. Oh, vedi. Cioè io lo devo ancora fare, però lo faccio, dico, se facciamo il minimo tutti, se lo fanno tutti, sai che radio che esce fuori, no? Sì, no, poi radio, appunto. Radio Onda Grossa. ci piacerebbe pure ripetere tante volte sta roba qua. Certo, le forze che abbiamo, anche le forze proprio nel senso. Te c'hai un sacco di energia. Noi invece l'abbiamo persa in tanti anni, quindi alla fine. ci dobbiamo un po' così, quello che riusciamo a fare, ecco, le vile sono scariche. Rinnovare ogni giorno. Sì, le vile sono scariche, quindi. Però ci piacerebbe tanto, insomma, queste cose invece ci danno grande piacere, grande carica, perché comunque già da queste prime note si sente che al di là del. Cioè, c'è una dimensione disco che è la dimensione della sala di registrazione, che poi alla fine tutto suona bene, sono tutti bravi a suonare in quella dimensione, volendo, avendoci un buon entourage intorno, no? Quando invece stai così, con due microfoni, una chitarra e una voce, diciamo, è difficile. Beh, no? Ma gli agenti vogliono sentire questo, chi sei te senza fronzoli intorno, no? Senza fuochi artificiali. Certo. Ed è la dimensione poi più umana, più bella, più vera. Sì. Va bene, allora, tu ci avevi proposto una cosa da mandare, che è Norman Greenbaum. Greenbaum. Spirit in the Sky. E chi sarebbe questo Norman Greenbaum? One Hit Wonder, è uno che ha avuto un solo grande successo, però questo successo è stato grandissimo, io me lo ricordo da allora, sarà stato il 70, 69, 70. Ecco, questo è un pezzo di quelli che non vogliono mai, che io sentirei sempre. Poi bene, quindi proposta di Roberto Falconieri, Spirit in the Sky. Dicevamo che forse potrebbe essere pure quella che poi c'è la cover di Dead or Alive, ed era una cover. Lo scopriremo solo ascoltandolo. Senti. Non l'abbiamo sentito prima. Bene, Radio Onda Rossa 25 o'clock, Spirit in the Sky, Norman Greenbaum. Allora Roberto, 23-24 minuti primi, mettiamo in ordine i tre modi, poi forse ci stanno anche di più, insomma vediamo un attimo. Comunque i tre modi per usufruire, per suonare, per mettere su, per conservare, per propagare la musica, che sono essenzialmente appunto il live, quello che stai facendo adesso, con un media che è la radio, eccetera eccetera, e il disco, e quindi te ci hai parlato di 100 copie, insomma una piccola parte così da mandare in giro, da mettere, che però è appunto questo involucro materiale dove è incisa comunque quella stessa musica, e poi adesso la forma più moderna, la diffusione tramite appunto le piattaforme, tramite la rete, tramite anche i social, no? La possibilità poi di allegare, eccetera. Sì, ma io tu che sei, no, tu che sei della vecchia guardia, come interpreti questi tre modi, anche di più, perché appunto poi anche il supporto materiale, poi lì potremmo aprire una discussione, no, fra il CD, il vinile, la cassetta. Allora, la interpreto che io ho bisogno di qualcuno che mi indirizzi, che mi aiuti, perché io non so proprio come muovermi, non è un mondo bravo, che non, cioè quel, non questo che bravo il mondo attuale, a vendermi in questo, insomma. Ecco, no. Sì, ma qual è quello che comunque preferisci tu, che ti piace di più, che ti dà di più per proprio fino adesso non mi ha dato nulla, niente. È andata male. Beh, vabbè, no, dai, a suonare live ne hai fatti tanti. Ah, sì, insomma. Sì, certo, però ho suonato tanto suonando la chitarra nei gruppi cover, no? Uh-huh. E invece promuovere la mia musica è una cosa che fino adesso non ho ancora fatto dal vivo, cioè lo facevo negli anni 80, ma era una cosa totalmente fallimentare. Infatti per tanto tempo sono rimasto, diciamo, traumatizzato, e ho continuato a suonare e basta. Poi nel 2007 mi è cascato un mattone in testa e ho cominciato a scrivere i pezzi. Da allora mi sono occupato solo di quello. That's it. Ok, e vabbè, i dischi insomma sono quello che, ma anche come, cioè non te lo dicevo, che solamente come appunto di, come soggetto appunto di colui che scrive musica, anche dal punto di vista di chi l'ascolta, insomma devi andare più ai concerti e ascoltare i dischi, o ti stai anche imparando ad ascoltare, la musica in rete? Beh, adesso ascolto solo in rete, perché non vado ai concerti, che ci stanno i concerti, non c'è neanche. Stanno i mega concerti al Flaminio con Ultimo, questi qua, che poi magari la gente la fanno in buca così, capito? Sembra che riempiono lo stadio, poi magari sono entrati tutti gratis, non lo so, l'ho sentita dire sta cosa. Beh, si può essere. No, io me ne sto per conto mio, ecco. E finché non trovo un'etichetta, uno sbocco per questa cosa, a me di andare in giro a suonare cover mi sono stufato, insomma. Mi sono trovato sempre in mezzo al country, poi, che mi piace, ma non c'entra niente con quello che faccio adesso. Che poi è quello che c'è dentro, probabilmente, no? Perché non ti sei messo a suonare country, insomma. Beh, mi è capitato più per punk, caso. No? Per caso suonare country, ecco. Suonavo la pedastil, certo mi piace, quindi suonavo la pedastil. Allora per quello mi cercavano, insomma, ho suonato un po' in Europa con i gruppi italiani, però rimani là, ecco, non lo faccio più io. E quindi che suoniamo adesso, che ci anticipi per le prossime due tracce? Penso che le farei di seguito, no? Se abbiamo capito, sì, bene. Faccio un altro pezzo di quelli che ho scritto ultimamente, Real Drug Signing, che non sapevo proprio che scrivere, cercavo un pezzo da scrivere, ma stavo con la mente inerte, cercavo pensieri da allora ho deciso di scrivere quello, e la canzone è venuta fuori per magia, chiaramente molto breve, dato che non ho niente da dire nel pezzo. Però ho detto quello. Lo inizio con due secondi di Rolling Stone. Sì, un attimo però che rimettiamo i livelli come devono stare. Più o meno ci dovremmo essere. Yes. Sì. got a cow in my closet. I want to sing of what it's been. Now I need some serious stuff. Faccio un pezzo invece sempre dal vecchio concept album Dogs for Dogs, verso la fine del Skullcracks Item, la mini punk rock opera che stavamo dicendo prima, no? Dogs for Dogs. I'm back in the days when I used to get scared around. In the days when I used to get scared around, I go out, I get killed, I stay in. It's the wind, let there be days to send me. Back in the days when I used to get scared around, I'm back in the days when I used to get scared around. Wild dogs, strolling cop, look for Scott. I carry a 44 in my baggy, tell him say so long to your doggy. Hey. Back in the days when I used to get scared, get around. Anche questo era molto breve, come avete visto. Della mutazione di frequenza, questa era l'Onda Rossa, 25 o'clock ai controlli, Roberto Falconiani in studio e affiancati anche al mixerino così. Che ci serve per filtrare un po' il suono che poi va in onda sulle frequenze di Onda Rossa. E ringraziamo, ci abbiamo il fantasma, che fantasma appunto, ma poi alla fine anche lui avrà il suo piccolo momento per ricordare comunque chi va ricordato. Gonna do, tell your mama, gonna flat it on through. You walk on. mentre Roberto si prende una pausa, ci prendiamo una pausa anche noi. Ricordare il prossimo autunno, già in questa mezza estate. Le iniziative di Radio Onda Rossa, centro sociale occupato e autogestito dalla Torre, 4-5 ottobre 2025, arriva la prima edizione del Festival Culturale di Radio Onda Rossa, Interferenze Costruttive. Ospitato dal centro sociale occupato e autogestito La Torre, sarà un'occasione di incontro e confronto oltre i microfoni della radio per raccontare e confrontarci con le realtà in lotta e le compagne e i compagni, prenderci un tempo di riflessione collettiva e immaginare insieme pratiche di resistenza, laboratori, tavole rotonde, presentazioni, mostre fotografiche e molto di più. In questo ambito, cioè quella di interferenze costruttive, c'è Roma Messa a Fuoco, una chiamata fotografica aperta a tutti per esporre le tue foto il 4 e il 5 ottobre al Festival Interferenze Costruttive organizzato da Radio Onda Rossa al XOA, alla Torre. Partecipa inviando 3 fotografie orizzontali a 4 a ondarossa@ondarossa.info con oggetto Roma Messa a Fuoco. Entro non oltre il 5 settembre del 2025. Ricordiamo aggiornamenti per Tarek per sostenere la campagna per la liberazione di Tarek e le sue spese legali. Si può fare un bonifico alla IBAM, vabbè, un numero lunghissimo. Vi diamo, diciamo, indicazione di andare sul sito della radio www.fondarossa.info e segnare il codice IBAM, intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, in cui però è importante che voi, in questo caso, cioè se è per il sostegno alle spese legali di Tarek, indichiate con la causale Tarek libero. E comunque vi rimandiamo al sito di Onda Rossa per maggiori informazioni su tutta la faccenda di Tarek. C'è proprio una paginetta dedicata sulla colonna di destra del sito, quindi potete andare a leggere lì in tranquillità e ascoltare anche quelli che sono gli audio registrati. Pronto? Chi è là? Allora Roberto, ci sei? Sì. Mi ascolti, ma non capisco come mi ascolti dalla cuffia. Non mi ascolti dalla cuffia, ma ascolti da... Cioè, no, non può ritornare sulla tua cuffia. No, non lo so, sì, ti sento. Però basta che mi senti, sì, non andiamo... Non indaghiamo oltre. Allora, quindi stai preparando quello che dovrebbe essere, no? Se ho ben capito, erano 5 tracce, no? 5 pezzi. Io chiamo tracce perché sono abituato a trattare con i pezzi di plastica, invece poi quando canzoni, cioè dici i pezzi che suonano, sì, stasera, sì, sì. Sì, sì, infatti questo previsto, è il quinto. La scaletta era previsto. Questo è il quinto e l'ultimo. Vi lascio con un brano di quelli iniziali, sempre da Skullcracks High Times. La mia lavoro quasi del, punk, del 2002, no? 2022, scusa. Beh, sì. Io ci ho segnato 2022. Ufficialmente sì, ma insomma era già un bel già pezzo che c'è. Che ci lavoravi. Questo è uno dei brani iniziali. Vogliamo ricordarlo un pochino, visto che è uscito pure, che così ridescrivere un po'. Sì, ma non è in vendita, ho fatto delle copie per omaggio. Per sì. Omaggio, vabbè, però. Ma insomma, se qualcuno la vuole ricevere può rivolgersi, esatto, a te. No, no, a me, io a te pure, insomma, Roberto Farquilini lo trovi, sì, in rete, è abbastanza facile. Sì, sì. Vabbè, comunque lo vogliamo ricordare, visto che insomma li stiamo facendo stiamo rifacendo un brano. Sì. Era un lavoro appunto che abbiamo descritto, tra l'altro, ecco, potete andare su, anche se volete approfondire il tema, sui podcast di Onda Rossa, scrivete Roberto, esatto, Marconi, li troverete senz'altro. Però così oggi, a beneficio per chi ci ascolta, si trattava appunto di un lavoro, non era una semplice raccolta appunto, no, era un concept album, diciamo un'opera rock come Tommy, con le distanze dovute, non come Tommy, però di quel genere, con dei personaggi, una trama e tutto quanto, più che un concept album, insomma. E come Tommy ha un personaggio principale, Caspian, che è un soggetto ritardato che passa determinate esperienze a scuola, è divisa in due parti, una quando i fatti avvengono e un anni e anni dopo, in cui Caspian è cresciuto e ha questo desiderio di vendetta, diciamo. Vabbè, quindi insomma un disco che va ascoltato per rip anche per intero, speriamo appunto che questi anche i testi sono importanti, queste pillole, diciamo, che ci regali stasera. Sì, però pure voglio dire che sto terminando un nuovo album, insomma, l'abbiamo già, certo, detto, insomma, certo, traccia dopo traccia, e questo qui invece però non questo avrà, è sempre da quello là, da quello vecchio. Sì, no, no, dicevo il nuovo album, magari ne parliamo dopo, dai. Sì, ne sì, parliamo dopo. Questo è Junior High da Skullcracks. Ok, High. Ti richiamo tutti gli effetti, si sente, yeah, in cuffia, e Roberto fa Junior High, scuola media. Che è successo? Tutto a posto. The bigger they come, the harder they crash. Nothing was left when they swept the dust. They took it and out, made a match with a trout for an elegant catch he's to score. Where sons try to create what their parents destroyed, they cancel their drawings, threw away the toys. I sing in an idiom I don't really know, of a country a dream's dead and gone. Junior high they put on you, cause you to drown. In junior high they tore the picture down. My folks walked out with fees for my school. I fancied to learn, but they sent me to a hole. Cause war stank out, the priest was a girl. So I lost the years, how I don't know. The black it was laid, the deed it was done, which sake it was for never being told. They traced us through wheels, stately condone. It was clear the sick was dead and gone. Junior high they put on you, cause you to drown. In junior high they tore the picture down. nessuno. Dobbiamo stare attenti. Hanno occhi ovunque. Per favore, smettila di essere paranoico. Non c'è nessuno qui, guardati intorno. Nessuno. 53 minuti primi, quindi abbiamo, ci siamo divertiti con questo live set di Roberto Falconieri negli studio di Radio Onda Rossa. Allora, dicevamo, abbiamo parlato prima del ti do il microfono magari diciamo, abbiamo parlato prima del vecchio lavoro, e invece cosa bolle in pentola. Praticamente ormai traccetta alla volta abbiamo registrato tutto. Che cosa c'è da fare ancora per produrre, per finire questo secondo lavoro? Poi si vedrà se verrà, come e quale forma. Io ho finito tutto, mi manca l'intervento di un altro chitarrista, Gianfranco Continenza, e di un pianista, Ricky Nai, che è un amico mio. Gianfranco Continenza, che tra l'altro ricordavamo Stava pure, sì, ha già, sì, registrato un altro altro. Sì, che è un grande chitarrista jazz in realtà. Assolutamente grande. Che chi appunto magari non è nella scena, non è nel mondo del jazz, diciamo, può non volergli dire nulla, ma stiamo parlando di proprio uno dei leader mondiali, insomma, uno dei personaggi molto conosciuto, insomma, nel mondo. Vabbè, neanche io sto dentro al jazz, però è un amico mio, lo conosco. Per fortuna. Tra l'altro provenienti, fratelli Continenza, da una vecchia band metal di Pescara, no? Di dov'è? Di Francavilla, di Pescara. Pescara. Sì. Di Pescara. Non Abruzzese. So se c'è una band metal. Sì, assolutamente. Lui è il fratello, sì. E niente, che sono molto contento di aver fatto sta cosa, che non ho preso papere, che ho sbagliato solo un accordo sul primo pezzo, che non si è rotta di questa stasera. Non si è rotta nessuna corda, quindi per me meglio di così non poteva andare. E soprattutto direi una cosa, sì, che ti ha ascoltato, ma speriamo che ti abbia ascoltato qualcuno che ha interesse a fare qualche serata, qualche iniziativa. Perché vabbè, Roberto sarebbe contentissimo, insomma, ve lo dico, fatelo suonare. Se lo merita, insomma, c'ha un... E se non vi è piaciuto, va a no. Esatto, c'ha un'attitudine rock and roll assolutamente verace, insomma, l'avete potuto ascoltare, quindi... E suona bene, ragazzi. Cioè... quando uno è bravo, però. Vabbè, ciao a tutti. Dai, grazie Roberto. Bravo, diritto a casa. The soul I met was choking on death. Its mother kicked and broken its neck. I never seen blood or milk make a soul divine. I never seen such beauty in so malign. Catch a lift on the last bus home to the end of the line for the coffers I own. I get thrown off. Nel frattempo abbiamo scoperto che Roberto suona col plettro morbido, quindi minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. E ricordiamo il corteo per questo sabato 26 luglio. Per respingere il tentativo l'amministrazione comunale di Marino di sfrattare i locali del centro sociale i Po' di Marino. Ricordiamo centro sociale, penso che c'ha 40 anni pure l'Ipo di Marino, forse c'è scritto, però insomma veramente me lo ricordo da vado a memoria, posso sbagliare, dovrebbe essere dell'87 l'occupazione? Potrebbe, uno dei sì, molto molto antica, poi sono cambiate varie gestioni, ma più o meno insomma sono rimasti i Castellani ovviamente insomma a gestire da sempre il centro sociale, una di quei patrimoni proprio della cultura e della storia politica dei Castelli, ma anche di Roma, insomma, anche di questa città. Ultimo centro sociale rimasto nella provincia, credo di non sbagliare su questo. Sì, non so se appunto nella provincia di Roma sicuro, no, non so se in provincia, cioè in quel della Tuscia ci siano dei spazi o magari sì, qualche cosa, insomma, qualche spazio, però centro sociale nel senso quello che fa i concerti, che è fisso, che c'ha assemblea di gestione, insomma, credo che sì. E quindi sabato 26 luglio partirà un corteo. Il concentramento sarà dalle ore 10:30 in via del Giardino Vecchio 1 a Marino. E quindi l'invito da questi microfoni è quello di partecipare in massa. Andiamo a ricordare da questi microfoni. La scomparsa di un pazzo. Sì, no, calcolate che è talmente pazzo che per tanti anni, almeno prima nella prima stesura di Next Time e poi quella anche dei 25 O'Clock, è stato bannato, diciamo, nel senso che ha ragione, insomma. Ha ragione, no, ma in particolare lì c'era proprio una cosa, poi torna pure a cecio rispetto a quello che sta succedendo oggi, magari come dovremmo facciamo con i Radiohead, per esempio. Cioè, era uno dei pochi artisti, magari potessimo dirlo oggi, uno dei pochi artisti che diceva e dichiarava e si rivendicava che andava a suonare a Sun City, cioè la città del divertimento, certo, dei casinò, che stava in Sudafrica e dove appunto si facevano i concerti delle mega band, e proprio nell'epoca in cui invece nasceva il boicottaggio totale, no, del Sudafrica e razzista di Botha, insomma, di quell'amministrazione là. Oggi ci piacerebbe dire altrettanto, in parte lo è con quello che succede in Palestina, e ci piacerebbe bannare pochi artisti e artiste, purtroppo appunto ad esempio Radiohead, che era una band che comunque su questa radio eccetera, anche per tante posizioni politiche aveva preso negli anni appunto durante il periodo di Genova eccetera, e invece ci troviamo costretti insomma a dover criticare i vari Greenwood e eccetera, insomma, che comunque addirittura vivono in Israele, ecco, questo è un po' il discorso. Ci piace insomma ricordare certo. Nonostante tutto. Nonostante tutto ci piace comunque ricordare Ozzy e Black Sabbath per quella scintilla iniziale che ha squarciato un po' quel periodo di flower power, tutti felici, tutti innamorati. E loro che erano quattro pischelli working class dalle, certo, dalle campagne di Birmingham, e che invece scannavano sorci sul palco, pipistrelli mangiati, insomma. Ma insomma, così. Quando gli chiedevano ma come mai siete nati in quegli anni in cui c'era questa grande rivoluzione amorosa e come mai non abbracciavate quell'approccio positivo? Loro dicevano a Birmingham c'era il rumore delle fabbriche, non c'era niente da ridere. I fiori incestavano. Non c'erano. E quindi li ricordiamo così dal disco Sabbath Bloody Sabbath. Questa è la loro Spiral Architect. 10 minuti dopo la mezzanotte andiamo a concludere dopo questi Black Sabbath di annata. Alle radici di quello che sarebbe stato prima chiamato la hard rock e poi un po' più tardi heavy metal. Allora, noi andiamo via così, ce ne andiamo sotto il mute da Amburgo, la nostra banda preferita, almeno in questo periodo. Credo che ce ne facciamo un'altra, mo non so, il fantasma stasera è venuto, non so se gli regge di fare l'ultima puntata della stagione, chiederemo comunque anche al Caronte, insomma cercheremo di mettere su un po' di amichetti e amichette che vengano a chiudere questa stagione radiofonica di 25 O'Clock, perché poi se ne riparlerà. A settembre qualche cosa faremo, forse una fama a settembre. Però sapete, insomma, che poi a ottobre sì, più sicuro, ecco, più è più certo. Allora, noi vi salutiamo, sì, vi salutiamo a tutte e a tutti, ringraziamo ancora Roberto Falconieri per il regalo che ci ha fatto questa notte. Le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono con noi, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica iMuse. Le trasmissioni riprenderanno in diretta domani mattina a partire dalle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i relazionali dalla città e dal resto del globo. 12.40, 13.40 finiscono i relazionali e parte la replica di Impatto, la trasmissione sulle nocività di Radio Onda Rossa. Poi la trasmissione sul cinema invece della radio, tutta scena cinema, dalle 10.45 alle 14.45 alle 15. Disabilità punti di vista. Vi ricordo che probabilmente, dato che trattasi di luglio quasi finito, si tratterà per lo più di repliche. 17.18 La Schiena del Sol, 20.21.30 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri della radio, 21.45 21.45, forse questo invece è vero, In Octubus Panis, il nostro fagiolino, 23 a chiudere. I Cuginetti di Apostasia, il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, famigerati, centri di detenzione per migranti, decreti amministrativi, eccetera eccetera. Abbiamo ricordato un po' dei tanti appuntamenti che ci stanno appunto ai castelli o più in là, più in avanti. Comunque rimanete sintonizzati e sintonizzate su Radio Onda Rossa, perché più o meno vi diciamo tutto quello che è importante da dire. E noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai, a risentirci a mercoledì prossimo. our dreams. I'll share our dreams under a communist moon.